Martedì 6 novembre, i titoli. Il Sole 24 Ore apre così: via alla stretta sugli statali, contratti a termine, scelta alle parti. Sono circa 6.000 i posti in esubero tra ministeri ed enti. Ora meno tasse sul lavoro, questo invece è il titolo del Corriere della Sera. Entrate tributarie meglio del previsto, più 3,8%. Poi c'è chi apre sulla giornata americana. Repubblica, Casa Bianca duella all'ultimo voto, La Stampa, Obama, Romney, l'America sceglie, Il Messaggero al voto un'America divisa, L'Unità, siamo tutti democratici con la foto di Obama, Per Avvenire la notte più lunga, America al voto, Il Manifesto, provaci ancora, e c'è il ritratto di Obama. Poi Libero, sputi affini, questo è il titolo di apertura ai funerali di Rauti, Il Giornale anche, insulti e sputi affini. Per Il Secolo XIX invece intervista il presidente della Camera Fini, che dice fuori i condannati. Il Fatto Quotidiano, miracolo, il governo dice i soldi per la SLA ci sono, è il tema che abbiamo lanciato venerdì scorso. Mentre KO tecnico è il titolo di Pubblico, 3 milioni di disoccupati, sarà recessione anche nel 2013. L'abbiamo sentito, ne abbiamo parlato anche prima alle 6.30. Cosa ha combinato il ministro Elsa Fornero? No, combinato è una parola grossa, ma insomma è andata a un convegno che pensava fosse a porte chiuse. E quando ha visto i giornalisti ha detto no, i giornalisti devono uscire, altrimenti devo pensare ogni singola parola, dovrò parlare lentamente, insomma ha fatto un po' una filippica sulle polemiche giornalistiche degli ultimi tempi, come dire, voi giornalisti poi uno parla per mezz'ora, dice cose sensate, pacate, poi dice una parola, e magari si riferiva a quel Ciusi di qualche tempo fa, e voi fate i titoli su questo. Allora, i giornali si scatenano e dicono eccola qui l'ultima gaffa, cioè ha detto non voglio parlare ai giornalisti se no faccio gaffa, ma per i giornali già questa è una gaffa, cioè aver chiesto ai giornalisti di uscire. La Fornero caccia i giornalisti, se ci siete voi devo pensare, così Libero la pone a pagina 15, oppure Il Messaggero con un commento in prima pagina di Alberto Gentili, e Fornero caccia i giornalisti, devo pensare ogni parola. Ha detto naturalmente ora visto che ci siete farò degli errori, questo è indubbio, e saranno gli errori a fare i titoli, questo l'ho imparato sulla mia pelle, parli 40 minuti, dici delle cose sensate, pacate, positive, poi ti scappa una parola e dico una parola, non una frase, e quella fa il titolo e determina il dibattiti che durano settimane, questo è uno stato del mondo ed è inutile lamentarsene. Insomma, Elsa Fornero che se la prende dopo l'ultima gaffa sul Ciusi, o l'ultima uscita, dichiarazione sul Ciusi che ha fatto titoli e titoli di giornali, anche per Il Giornale Fornero caccia i giornalisti, fate i titoli sui miei errori. E anche La Stampa, Fornero ai giornalisti, non vi rispondo più, fate i titoli sulle battute. Insomma, quella che era un'uscita per prevenire delle gaffe è stata bollata subito dai giornali impietosi, questi giornalisti, come la nuova gaffe del ministro Fornero che non voleva i giornalisti prima di parlare a un convegno. Altrimenti ha detto devo parlare molto lentamente e pesare ogni singola parola. Voglio andare al Corriere della Sera per raccontare una notizia che Claudio Del Frate racconta nel suo articolo a pagina 29. Riguarda il gioco d'azzardo legalizzato, un tema di cui ci siamo occupati anche noi, e proviene da Pavia questa notizia. La carica delle mogli per fermare i mariti che giocano d'azzardo. È una vicenda che ha portato 20 mogli ad andare dal giudice a Pavia, città considerata una delle città dei record dove più si gioca al gioco d'azzardo legalizzato, e scrive Claudio Del Frate: ci sono mogli e mariti, ci sono mogli e madri, figli, parenti stretti, ci sono 20 persone che nell'ultimo mese hanno chiesto al tribunale di fare interdire un loro congiunto che si è rovinato per colpa del gioco. Succede a Pavia, città dove secondo le statistiche la spesa pro capite per le scommesse è più alta. Non è un caso che proprio qui si faccia ormai ricorso a questa mossa estrema. Le famiglie chiedono al giudice che il loro parente prigioniero del gioco non possa più disporre del suo conto in banca, dei suoi beni, che venga messo sullo stesso piano di un bambino o di una persona incapace di intendere. È quello che si fa abitualmente quando si ha le prese con una persona affetta da una patologia psichiatrica o senile, ma mai si era visto estendere il concetto a chi diventa schiavo del gioco. Si tratta di una strada difficile da percorrere, afferma Simone Feder, che è psicologo e protagonista a Pavia di questa battaglia, ma certo alle porte della sua associazione No Slot bussano le famiglie alle prese con persone dipendenti dal gioco. Una giovane donna è arrivata a nascondere un satellitare sull'auto del padre per verificare che non si avvicinasse a qualche bar. E insomma, c'è chi cerca di impedire in qualsiasi modo al proprio congiunto questo, e 20 persone sono andate davanti al giudice per dire: togli il controllo dei beni per il congiunto, a volte anche il padre di famiglia, magari colui che è l'unico che ha la firma sui conti in banca, perché altrimenti si rovina. Una strada molto difficile, ma che a Pavia stanno cercando di fare con questa associazione per interdire i parenti, bloccarne i conti e impedire loro che possano andare a giocare. La trovate questa storia sul Corriere della Sera, pagina 29. Noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e poi ripartiamo dalla politica e dall'economia. Le 7:35 minuti, siamo qui. Allora, la politica, ancora si interrogano sui giornali sul tema dell'incandidabilità. Entro questa settimana il governo ha promesso di porre i paletti, il disegno di legge per capire come rendere incandidabili le persone condannate, già quale paletto mettere. Oggi vi segnalo sui giornali alcuni articoli interessanti. Il primo certamente è di Dino Martirano sul Corriere della Sera, perché rischia di trasformare tutto questo, non vorrei usare parole pesanti, ma forse se si dice in una pseudo buffonata non ci si sbaglia di troppo. Il titolo dell'articolo è questo: De Angelis e gli altri, sei in bilico nel palazzo, ma la riabilitazione li salverà quasi tutti. Allora, De Angelis è un deputato di cui parleremo tra poco nell'articolo. Le tre parole magiche che potrebbero essere messe in questo decreto legge, potrebbero far cadere un po', svuotare il senso di tutto questo, sono queste tre parole: salvo, intercorsa, riabilitazione. Con questa formula, scrive Martirano, dopo 10 anni di irreprensibile condotta del condannato, un giudice di corte d'appello azzera le pene principali e quelle accessorie, pulisce il certificato penale, riabilita con provvedimento tombale. Tre parole: salvo, intercorsa, riabilitazione, che cancellano dopo 2 lustri i comportamenti rilevanti per il codice penale. Ecco allora che alcuni deputati, come Marcello De Angelis, quello citato nel titolo, condannato tanti anni fa, nel 1986, a 5 anni e 6 mesi per banda armata e associazione sovversiva, oggi anche il direttore del Secolo d'Italia, ha detto: io mi sono costituito, ho scontato la pena pur non avendo alcun addebito specifico, nel 99 ho avuto la riabilitazione ed eccolo, potrebbe essere candidabile perché è stato riabilitato. Così Salvatore Sciascia, già ufficiale della Guardia di Finanza, capo servizi fiscali della Fininvest, condannato a 2 anni e 6 mesi per aver corrotto alcuni ex colleghi delle Fiamme Gialle, potrebbe anche per lui saltare l'asticella dell'incandidabilità. Perché dice: i fatti a me attribuiti sono del 92, la condanna del 2001 è di 2 anni, per cui lascia intendere non verrebbe superato il tetto delle pene superiori ai 2 anni, stabilito dalla legge delega. E insomma, il rischio è che si vuole fare una legge per l'incandidabilità, ma che, come scrive il quotidiano nazionale, liste pulite, il governo accelera, fuori usurai, truffatori e corrotti, ma poi si fanno i calcoli secondo le asticelle che vengono poste e sentite cosa dice il sottotitolo del quotidiano nazionale: tremano 3 parlamentari. 3. Cioè 3 parlamentari. Ma come, ci sono 21 condannati in via definitiva, tantissimi indagati, tremano 3 parlamentari, che sarebbero Giuseppe Ciarrapico, Salvatore Sciascia, che peraltro ha detto: la mia condanna invece è a 2 anni, non 2 anni e 6 mesi, ma 2 anni, e quindi non supero l'asticella dei 2 anni e 1 giorno, quindi uno sarebbe già salvo, da tre sarebbero due, quelli che tremano, e il deputato Aldo Brancher, condannato in via definitiva a 2 anni per ricettazione. Ma no, anche lui, 2 anni. 2 anni, se viene posta a 2 anni vuol dire che deve avere 2 anni e un giorno, quindi condanna fino a 2 anni, tutti dentro in cavalleria. Secondo l'Unità invece c'è più, tra virgolette, ottimismo per chi vuole questa legge. Il titolo è questo, nell'articolo di Claudia Fusani a pagina 10: incandidabilità, stop a Dell'Utri, pronto il testo. Si stringono le maglie del decreto del governo che sarà in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana. Ecco perché con Dell'Utri, perché la frode fiscale, se accertata fino al terzo grado di Cassazione, sarà uno dei reati per cui scatta la non candidabilità. Questo significa che il senatore Dell'Utri, convinto fino a ieri di potersi ricandidare per tutelarsi dall'assalto della magistratura, non potrà più entrare nelle liste del centrodestra. Questo secondo l'Unità, perché porranno la frode fiscale per il quale lui è stato condannato in via definitiva come reato per il quale si è incandidabili. Come sarà, come non sarà, lo scopriremo in settimana. Certo, i partiti sono molto attenti a capire che cosa sta succedendo, e ovviamente le persone che hanno una condanna e che intendono ricandidarsi a maggior ragione più degli altri. Cosa è successo invece ieri ai funerali di Pino Rauti? L'abbiamo sentito anche nell'audio alle 6.30. Una serie di contestazioni, anche dure, che fa titolare urli e sputi affini sia Libero che Il Giornale in prima pagina. Secondo il Corriere della Sera addirittura è arrivato uno schiaffo allo stesso presidente della Camera che si è presentato ai funerali di Pino Rauti. È stato contestato da una serie di nostalgici camerati che facevano, tra l'altro c'è sul Corriere della Sera una foto incresciosa, saluti romani a gogo, questo all'arrivo all'ospedale, e poi all'ospedale, scusate, alla chiesa per il funerale, e poi appunto Fini accolto con fischi, spintoni e sputi. Assunta Almirante viene intervistata da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera pagina 22, dice: l'ho trovato, è stata una cosa improvvisa, ho sentito le urla fuori, Badoglio, traditore, situazione che si è fatta pesante, poi ho visto è arrivato Fini, il volto bianco, teso, ce l'avevano con lui, e io mi sono alzata e gli ho dato la sedia. Pensi un po', una signora come me che si alza e cede il posto a Fini, ma davvero era l'unico modo per proteggerlo? Si sono fatti avanti alcuni camerati, un paio di tipi piuttosto muscolosi, hanno provato ad avvicinarsi, io mi sono alzata, gli ho puntato l'ombrello perché mica ho paura, sa? E io gli ho detto: ve ne andate e lasciate stare Fini o io ve lo do in testa questo ombrello. Hanno capito e non hanno mosso un dito. Brutte scene. E io poi a Gianfranco ho detto con un filo di voce: però per una volta hai avuto un bel po' di coraggio, presentarsi qui non era certo facile. Gianfranco Fini oggi viene intervistato dal Secolo XIX da Giovanni Palombo e liquida questa faccenda all'inizio dell'intervista in maniera molto fredda e impassibile, scrive lo stesso Palombo: è un problema di chi mi ha contestato, non ha avuto alcuna sensibilità. Mi hanno insultato, risponde così alle accuse, per esempio, di Daniela Santanchè, che dice ha ucciso lui Pino Rauti. Sono scempiaggini assolute, risponde Gianfranco Fini, che poi aggiunge: per esprimere vicinanza al dolore dei familiari, rispetto nei confronti della salma, sono andato lì. Ma diciamo che non c'è ombra di dubbio e non avevo bisogno di questa contestazione per capire che io ho un'idea della destra profondamente diversa da coloro che hanno inscenato questa manifestazione. E poi aggiunge Fini: parliamo di cose serie. E lì inizia un'intervista meramente politica, parla dell'incandidabilità, fuori i condannati già in primo grado. Questo per esempio è il paletto che pone Gianfranco Fini: porre il paletto alla incandidabilità per chi ha una condanna anche in primo grado. Poi parla di Fiat sui licenziamenti: è antisindacale, un'azienda di quelle dimensioni non può rispondere così dopo che una sentenza della magistratura ha disposto il reintegro di alcuni operai, è antisindacale. E poi aggiunge: stiamo lavorando come alleanze con l'UDC, ma escludo un'intesa con Vendola e Sel. Voglio vedere un comizio insieme Vendola e Bersani. Così dice Gianfranco Fini al Secolo XIX intervistato. Partito in difficoltà invece l'Italia dei Valori. C'è Donadi, che è capogruppo, che ha preso molto le distanze da Antonio Di Pietro, che ora fa un passo indietro, come racconta Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, pagina 21. Caos IDV, passo indietro di Donadi. Il tema è il futuro dell'IDV, non il mio. La resa dei conti inizia così. Massimo Donadi prende atto della raccolta di firme lanciata contro di lui, si dimette da capogruppo dell'Italia dei Valori, non prima però di aver lanciato un altro sasso, di essersi tolto un altro sassolino dalla scarpa, quando Massimo Donadi dice c'è una casa a Roma, una casa in via Merulana, una casa di Di Pietro e non una sede dell'Italia di Valori. Su questo ho chiesto spiegazioni private, non ho mai avuto risposte, tanto che anche su altri giornali come su Il Fatto Quotidiano, Donadi sfiduciato lascia, ma anche Libero, la sede romana dell'IDV è la casa di Di Pietro. Questa è l'ultima accusa che Massimo Donadi fa prima di lasciare il posto da capogruppo alla Camera. Lascerà anche il partito? Beh, questo è il tema politico per quel che riguarda l'Italia dei Valori, su cui ci si interroga. Lo stesso Donadi, a domanda, dice: si sta buttando tutto a mare per pescare nella rabbia, nella delusione dei cittadini con questo predellino De Noantri. Così definisce l'ultima mossa di Antonio Di Pietro, che parla di cambiamento del partito. E riguardo la sua possibilità di rimanere, ha detto: io in un quarto d'ora posso anche andarmene, come in 10 minuti mi sono dimesso da capogruppo, altrettanto rapidamente potrei prendere atto e andarmene in 10 minuti. C'è anche l'amarezza di un altro esponente dell'Italia dei Valori, vale a dire il senatore Pancio Pardi, che sempre al Corriere della Sera dice: sono deluso dal partito, intervistato da Daria Gorodischi, non mi ricandiderò. E questo dibattito non mi piace all'interno dell'Italia dei Valori. E difficoltà anche per Grillo, le accuse di Federica Salsi, colei che è andata a Ballarò sfidando le ire di Beppe Grillo, per cui c'è stato poi quel diktat sui talk show che stimolano il punto G di qualcuno in maniera anche molto molto volgare. Federica Salsi, che è sotto attacco, e da qui ripartiamo. Dopo le informazioni sul traffico, lei dice: sembra di essere entrati nel Movimento 5 Stelle, sembra si sia trasformato in Scientology. E insomma, la consigliera comunale di Bologna, Federica Salsi, che dice: siamo come Scientology, si difende in consiglio comunale di fronte agli attacchi che provengono anche nei suoi confronti da tutta la base, da gran parte della base del Movimento 5 Stelle, per la sua comparsata a Ballarò, poi scomunicata da Beppe Grillo. Tra l'altro c'è una foto anche, a mio modo di vedere, poco simpatica. Ieri cosa è successo in consiglio comunale? La foto la trovate su tutti i giornali, per esempio il Corriere della Sera la mette a pagina 21. Federica Salsi si è seduta al consiglio comunale e gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle del consiglio comunale, tra cui Massimo Bugani, si sono seduti volutamente a una decina di sedie di distanza, cioè lasciando 10 sedie vuote proprio per rimarcare questa distanza anche fisica nei suoi confronti. Allora c'è questa foto di appunto Massimo Bugani che la guarda a distanza, ma tra lei e la sua collega di partito ci sono, o di movimento, ci sono 10 sedie vuote, come dire: tu sei là, sei fuori e noi siamo qua. Prendiamo proprio le distanze anche fisicamente da te. Grillo sta diventando come Scientology, questo è il titolo che trovate più gettonato dai giornali come accusa che Federica Salsi fa al Movimento 5 Stelle. Veniamo alle questioni del lavoro. Nel giorno in cui la disoccupazione è arrivata all'11,4% con un PIL ancora in calo, queste sono le previsioni dell'Istat del 2013, oggi il Sole 24 Ore mette il titolo di prima pagina dedicato al pubblico impiego e Davide Colombo ne scrive a pagina 2: via a 6.000 tagli, sono per la verità 6.198 gli esuberi e le eccedenze considerate in enti come ministeri, enti di ricerca, INAIL 900 esuberi, INPS 2.000, ai ministeri 3.158, di cui 58 dirigenti di prima e seconda classe, e scrive Davide Colombo, ora pronti i decreti sulle riduzioni dell'organico. La situazione è critica proprio per l'INAIL e l'INPS, oltre 6.000 eccedenze da gestire entro il primo semestre del prossimo anno, con tutti gli strumenti che la legge messa a disposizione, dai prepensionamenti al part-time, i trasferimenti volontari, prima di attivare le procedure di mobilità collettiva. Questo comunque è l'intenzione del governo. La settimana prossima il ministro Patroni Griffi, ministro della pubblica amministrazione, illustrerà i termini dell'intervento. L'obiettivo però è quello, in questa misura del governo, via a oltre 6.000 tagli, 6.198 le eccedenze quantificate in enti e ministeri. Non parlo di Obama Romney, perché oggi trovate molto sui giornali, se volete leggetelo, ma in questo caso proprio la giornata di oggi, che è una giornata importante, importantissima, quella in cui si vota il presidente degli Stati Uniti d'America, forse l'uomo più potente al mondo. In questo caso gli eventi della giornata che potete seguire su Radio 24 superano un po' quello che sono le ultime schermaglie raccontate sui giornali, detto che i giornali raccontano di un incubo pareggio, di un incubo possibili riconteggi, di 2.000 avvocati già pronti a contestare il voto che davvero si annuncia in... sì, con un Obama in vantaggio nei sondaggi, ma non di molto. Staremo a vedere. Noi domani ne parleremo, ci sarà tutta la notte elettorale in diretta di Radio 24. Noi anche domani dalle 6:15 alle 9 ci occuperemo solo di Stati Uniti d'America, e dunque vi rimando lì. Per quel che riguarda l'Italia, c'è questa inchiesta che riguarda la vendita di Valentino Fashion Group, che sulla quale la procura vuole vederci chiaro, perché, come racconta Angelo Mincuzzi nella prima pagina di Finanza e Mercati, il dorso del Sole 24 Ore, si prevede e si profila un rischio di una evasione fiscale colossale. Questa è l'ipotesi almeno della procura, una colossale operazione di evasione fiscale. Questo per i magistrati di Milano è la vendita del 29,62% delle azioni del Valentino Fashion Group al fondo Permira, avvenuto nel 2007. Si sarebbe conclusa questa vendita con una evasione con utili per 65,6 milioni di euro nascosti al fisco italiano attraverso la creazione di una scatola in Lussemburgo, la ICG, dove sono state fatte confluire partecipazioni della Valentino Fashion Group per poi rivenderle al fondo con un guadagno di 199 milioni. Per il GIP, appunto, tutto questo ha creato un utile di 65 milioni di euro per i quali non sono state pagate le tasse. Vendita Valentino, inchiesta per evasione. Questo lo trovate sulla prima di Finanza e Mercati, ma su tutti i giornali, certamente. Devo chiudere rapidamente una notizia che mi ha molto incuriosito, è questa. Ieri Belén Rodríguez si è presentata in tribunale a Milano, il processo Ruby, ha detto: non sono mai stata a letto una notte, non a letto, una notte, non mi sono mai fermata con Berlusconi, ma quello che mi ha incuriosito è questo. A un certo punto, spazientita in tribunale, ha detto: c'è ancora tanto da aspettare? Perché se c'è ancora tanto da aspettare, magari passo un altro giorno. E giustamente i giornali titolano: siccome è dall'estetista, prego, passi pure. Alle 15 la manicure, alle 17 lo shampoo. Belén Rodríguez. Ci sentiamo dopo le 7, oggi alle 8:30 avremo in studio Matteo Renzi.